Ovviamente è un aspetto particolare della problematica più grande legata appunto al cambiamento climatico e soprattutto alle iniziative di contenimento del cambiamento climatico. Fondamentalmente l'accordo di Parigi, che è comunque un accordo positivo e che chiediamo venga rispettato, ha però lasciato il taglio delle emissioni militari di gas serra alla discrezione dei singoli paesi, cioè ancora una volta l'ambito militare è stato privilegiato, escluso da tutti gli obblighi e da tutte le situazioni che invece devono essere fatte da tutti gli altri, no, ambiti più civili. E noi quello che chiediamo invece è che anche i gas serra e quindi le emissioni inquinanti provenienti dall'ambito militare debbano essere inserite all'interno degli stessi accordi, debbano essere gestite dai governi con la stessa trasparenza e lo stesso rigore che si dovrebbe assegnare a tutti gli altri missioni, anche perché le forze armate sono grandi consumatori di energia e contribuiscono in maniera molto significativa alle emissioni di gas serra, oltre che ovviamente causano un impatto ambientale negativo con l'addestramento, le attività, le operazioni militari. L'estate scorsa la NATO aveva già iniziato a valutare una mossa di questo tipo, o no? Sì, questo è sicuramente un aspetto positivo, un positivo passo avanti, che dopo anche che era partita questa nostra iniziativa, la NATO ha accettato di valutare la fattibilità di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, applicandole alle proprie attività. Però è ancora lontano da quello che noi ci aspettiamo e soprattutto vogliamo che ci siano segni e passi chiari in questo ambito. Noi, insieme alle organizzazioni internazionali che fanno parte di questa iniziativa, che potete vedere sul nostro sito, sono tante, sia a livello internazionale che nazionale, abbiamo declinato in un certo senso questi impegni generici in punti molto chiari, molto netti, che secondo noi devono essere rispettati se vogliamo che questo impegno generico sia invece credibile e significativo. Tra questi, dare obiettivi chiari di riduzione e stabilirne soprattutto per le forze armate affinché riducano la loro dipendenza dai combustibili fossili e passino all'energia rinnovabile. Dare degli obiettivi anche all'industria militare, che spesso e volentieri è sempre privilegiata, perché noi dobbiamo anche fare in modo che chi prende queste decisioni, anche in particolare a livello militare, sia formato al tema dell'impatto climatico e delle problematiche ambientali. Insomma, tutto questo non sarà possibile, tutto quello che stanno decidendo a livello internazionale non sarà possibile se non ci sarà un contributo degli ambiti militari. Quello che invece abbiamo visto è che anche durante la pandemia le spese militari sono aumentate e quindi purtroppo ci aspettiamo che anche le attività militari siano aumentate e di conseguenza, essendo appunto gli eserciti degli ambiti in cui che non stanno attenti a un risparmio energetico, perché il loro ruolo è quello di arrivare in un posto indipendentemente da quanto ci si vuole anche dal punto di vista inquinante, ecco, purtroppo tutto questo che si sta discutendo a Glasgow non sarà possibile se non ci sarà un contributo vero e serio anche degli eserciti e delle forze armate. Una domanda più a monte, diciamo, voi siete disarmisti, va da sé che, come dire, disinvestire nel settore militare degli armamenti porterebbe comunque già una riduzione, no, dell'inquinamento che produce. Esattamente. È chiaro che questa iniziativa sta all'interno di un quadro che vuole ridurre la problematica, vuole quantomeno limitare l'impatto e soprattutto vuole sottolineare il fatto, come già dicevo, che non è più accettabile che anche in questo ambito, che ormai è fondamentale, cruciale per la vita dell'umanità nei prossimi anni, appunto gli ambiti militari siano in qualche modo privilegiate e gli sia dato un lasciapassare. Poi è ovvio che noi riteniamo, non solo dal punto di vista ambientale e di inquinamento, cosa che già dimostrata, ma anche dal punto di vista sociale, l'investimento militare come un investimento sbagliato, perché sottrae le risorse a quella che è la vera difesa delle persone. E tra l'altro proprio in questi giorni il New York Times ha rilanciato una presa di posizione di 6 agenzie governative statunitensi che, lontano loro ci sono arrivati, ha dichiarato che insomma il cambiamento climatico ovviamente diminuirà la sicurezza anche dal punto di vista politico e anche dal punto di vista della sicurezza personale. È una cosa che noi abbiamo già sottolineato da tempo. Il problema è che non sembra che i governanti di tutto il mondo capiscano che se devo affrontare il cambiamento climatico lo devo affrontare con gli strumenti giusti, e gli strumenti giusti non sono certo quelli militari. Quindi sicuramente per noi la mossa migliore sarebbe quella di una transizione dalla presenza di forza e violenza come risoluzione del problema sicurezza a una presenza, una trasformazione non violenta dei conflitti. Ma intanto che questa cosa comunque continuiamo a chiederla, è fondamentale che quantomeno gli eserciti esistenti siano sottoposti a un regime di controllo e di abbassamento e inquinamento come tutti gli altri comparti. Perché sennò il punto è proprio quello, che anche tutti gli sforzi che si dovessero fare nel resto e che saremo chiamati anche noi personalmente a fare saranno inutili.